Siamo al telefono con i Pancake. Ciao ragazzi, intanto ciao. Grazie mille della disponibilità. Grazie a voi. Allora, il 3 maggio sarete qui in concerto al Covo di Bologna. Intanto, come state? Vi state preparando a queste tre date del tour che inizia tra poco? Sì, ci stiamo preparando. Dobbiamo iniziare ora a prepararci, siamo a fare le prove. Però ci siamo. Siamo contenti di partire per queste tre date. Voi siete reduci dall'esperienza di X Factor 2024, no? Ma la vostra storia inizia un pochino prima. Quando e come è iniziata la storia dei Pancake? Il Pancake è iniziata durante il Covid attraverso Skype, perché io e Damiano eravamo in Sonia prima del Covid, durante le superiori, e con il Covid abbiamo iniziato a suonare insieme, cioè Sonia mi insegnava la chitarra, e da lì poi ci siamo ritrovati una volta usciti da quella quarantena e abbiamo deciso di inglobare altri soggetti in questo esperimento. Pian piano si sono aggiunti tutti gli altri e abbiamo continuato perché abbiamo fatto più che altro eventi realizzati da noi. Per iniziare a suonare, perché non riuscivamo a trovare i posti all'inizio, non ci cacava nessuno. Ecco, e l'esperienza X Factor come è nata? Come vi è venuto in mente di partecipare a X Factor? In verità ci hanno un gruppo di talent scout loro e ci hanno contattato. Noi non avevamo pensato mai di andarci, non l'avevamo messo in programma, ecco, nella nostra carriera da musicisti, di trovare un programma televisivo. Ci hanno chiamato, ne abbiamo parlato tra di noi e poi abbiamo accettato. È andata parecchio poi di pancia la situazione. Si andava di puntata in puntata, cercavamo di non pensare altro se non a fare il nostro, a cercare di essere i più liberi possibile anche in un contesto in cui lo consentiva poco, però diciamo che non ci avevano scommesso troppo su di noi, ci hanno lasciato molta libertà e quindi ci andava bene, ci siamo divertiti. E da lì in poi un pochino, chiamiamolo successo, insomma un po' di riconoscimento in più è arrivato. Come sta andando come state vivendo questo successo? Ma bene, perché almeno adesso ci permette di poter andare a suonare a giro, di poter uscire dalla Toscana, ecco, era il nostro obiettivo, almeno poter suonare in tutta Italia, andare a giro, incontrare gente, divertirci con la nostra musica, poter pubblicare la nostra musica, avere un pochino più di budget, ecco, non tanto, però un pochino di più per riuscire a fare delle registrazioni decenti, ecco. Ecco, a proposito di registrazioni, voi non avete ancora album pubblicati, ci sono delle novità su questo fronte, avete qualcosa in cantiere? Noi abbiamo registrato l'album, adesso siamo in fase di mix e di master e uscirà verso ottobre, crediamo, non lo sappiamo, però diciamo dopo l'estate sicuramente. Prossimamente dovrebbe uscire un singolo. Ok, quindi state cavalcando un pochino l'onda, dai, se così possiamo dire. Sì, sì. Ecco, a proposito della vostra musica, il vostro nome contiene al suo interno la parola punk, perché è Punk Cake, con la KC, ecco, e vi sentite rappresentati in questo genere e più in generale quali sono le vostre influenze musicali? Allora, a livello attitudinario. Allora, noi ci sentiamo rappresentati nel genere, in particolare c'è per l'energia e l'incazzatura che c'è nell'esibizione live. Nell'esibizione. In generale punk è tanta roba, quindi non musicalmente non vuol dire un cazzo. Noi attingiamo alla fine da tante cose, cioè tipo anche i più vecchi, si pensa a Fugazi, ci piacciono tanto, i più recenti Idols, Viagra Boys, Emily and the Sniffers, quindi ma anche dei più vecchi, anche i Pixies, che sì, sì, in parte secondo me possono essere considerati anche punk, quindi diciamo abbiamo tante influenze anche fuori dal genere, più punk nell'attitudine che nelle musicalità magari, che poi punk effettivamente, come dicevate voi, può contenere un sacco di roba diversa, quindi sì, esatto. C'è una regola generale. No, poi cerchiamo sempre di portare un messaggio alla nostra musica, le cose che facciamo, e diciamo che secondo me questo rientra nel genere, ecco. Ok, e dicevamo, il vostro tour prevede per ora tre date, perché c'è Roma il 2 maggio, Bologna il 3, che sarete qui al Covo, e il 9 a Milano. C'è qualcos'altro? State lavorando anche a un tour estivo o qualche altra data, o per il momento siete fermi a queste? Nel prossimo futuro c'è il 30 aprile alla Sagra di Fagiolo Zolfino, nelle nostre zone alla Penna, nel Valdarno. E poi il 24 maggio a Trieste per un festival organizzato da Unarci. Il 15 giugno. E il 15 giugno in Firenze Rocks. cose varie, perché passare dalla Sagra all'Arci a Firenze Rocks sono cose molto molto diverse. Era la nostra necessità quella di comunque non finire a suonare soltanto per i festival grossi o per i locali, ma di variegare e di lasciarci anche disponibili a situazioni popolari per arrivare a più persone possibili, perché noi siamo in primis questo. Alla fine abbiamo iniziato così e non vogliamo perdere la nostra identità iniziale, che è la cosa fondamentale secondo me. Fantastico. Poi è difficile quando si raggiungono dei livelli un pochino altini mantenere la rotta, però insomma è la cosa più bella credo nella musica, riuscire a farlo. Sì, esatto. Difficile sicuramente non è la strada consigliabile per una questione di carriera, però a livello di goduria e di stare bene con noi stessi è la scelta migliore. Sì. Perfetto, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per questa chiacchierata. Vi chiedo per chiudere se avete magari un messaggio, un invito per chi ci ascolta per venire al Covo sabato 3 maggio e se avete una canzone tra le vostre da proporre per salutarci e darci appuntamento al concerto. Allora, venite al concerto il 3 maggio perché poi a mezzanotte è il mio compleanno. Esatto, compleanno meglio il batterista. Portatemi tanti regali, soldi, bere, quello per tutti. Mi sembra giusto. Quindi intanto verremo a farti gli auguri di persona e vi chiedo anche con cosa chiudiamo l'intervista. Che pezzo? Tra le nostre... Quella meno peggio. Messed up, dai. Ok, perfetto. Allora, ce l'ascoltiamo e appuntamento al 3 maggio con i Pancake. Yes, ci vediamo al Covo. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Bye.